Volevo dirti tante cose, ma non so da dove iniziare. Ti vorrei viziare, farti scivolare addosso questo mondo infame, mettermi fra te cento lame mentre cerco il mare. Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare. E tu che sai colmare, e tu che sai calmare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. Vorrei farti cento cose, ma non so da dove iniziare. Ti vorrei iniziare. Bella che non ti va di ballare, ma bella che se balli le altre ti guardano male. Che c'hai sempre qualcosa da insegnare. Mi metto in crisi in questo testo, non ti riesco a disegnare. Vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. E in fondo tutto quello che volevo, lo volevo con te. E sembra stupido, ma ci credevo, e ci credevi anche te. E non è facile trovarsi mai, oh mai, oh mai. E tu mi dici meglio se ora vai, ormai è tardi. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. Sei bella.